il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Oggi al quadrifoglio vogliamo parlare di commercio equo e solidale. La maggior parte degli ascoltatori saprà già di cosa stiamo parlando, perché da oltre 30 anni attraverso questo tipo di commercio si è garantito un giusto reddito e condizioni di vita migliori a centinaia di migliaia di lavoratori nei paesi del cosiddetto sud del mondo. Attraverso ad esempio il sostegno e l'acquisto a prezzo equo di materie prime e prodotti dell'artigianato direttamente da agricoltori, cooperative locali e poi la commercializzazione nei paesi più ricchi. Molte sono in Italia le botteghe che formano la rete che distribuisce questi prodotti, che però si trovano sempre più spesso anche nei mercatini, sia delle parrocchie, sia di negozi particolarmente sensibili, come per esempio del biologico, e da qualche tempo anche nei supermercati, in alcuni supermercati almeno. Ultimamente il commercio equo sta riflettendo, vista la situazione di crisi che attanaglia anche il nostro paese, se non sia possibile parlare di commercio equo solidale anche con i produttori italiani. Ecco, per capire un po' se e come questo potrebbe essere realizzato, abbiamo oggi ospite Vittorio Rinaldi, presidente del consorzio CTM Altro Mercato. Benvenuto Vittorio. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, spero che la mia breve presentazione sia stata corretta. La prima cosa che ti vorrei chiedere è: qual è lo stato di salute del commercio equo e solidale in generale, in Italia in particolar modo? Beh, dunque, il commercio equo e solidale rappresenta tuttora uno dei movimenti, diciamo, più vitali del terzo settore. È comunque un sistema che mobilita migliaia di persone, volontari, lavoratori, e quindi è una realtà, nel nostro caso, dopo 25 anni di storia consolidata da diversi punti di vista. Ovviamente è da quando è apparsa la crisi finanziaria e poi economica internazionale, anche il commercio equo ha risentito dell'impatto della caduta delle vendite, quindi non siamo in una canna di vetro, siamo dentro il mondo che ci circonda e ne subiamo anche le conseguenze. Ciononostante devo dire che rispetto a quello che succede in altre realtà commerciali, tutto sommato il commercio risente della crisi, ma non ne risente in maniera così catastrofica come avviene per altre realtà for profit. E quindi tutto sommato si fatica come molti altri, però diciamo si regge il colpo della crisi, ecco, in una parola. Ecco, voi state riflettendo, come dicevo nell'introduzione, anche sull'Italia, cioè è possibile pensare ad un commercio equo, quindi inserire anche nella vostra filiera, insomma nel vostro consorzio, anche dei produttori italiani che realizzano dei prodotti e poi passino attraverso questa filiera del commercio equo? Sì, esattamente, questo è, diciamo così, il tema che sta al centro della nostra riflessione già da diverso tempo, peraltro. Perché l'analisi che noi facciamo della marginalità, della povertà, della sofferenza non riguarda solamente il sud del mondo, quello che si chiamava una volta il terzo mondo, è una riflessione che riguarda tutti coloro che vivono problemi di sussistenza e di difficoltà, anche indipendentemente dalla collocazione geografica, politica e nazionale, e quindi noi oggi stiamo riflettendo molto seriamente su quello che sta succedendo anche in Italia, ed è da questa riflessione che poi è scaturita l'idea di creare una specifica politica commerciale per i produttori italiani. Cioè, noi abbiamo pensato già da diverso tempo e adesso lo stiamo concretizzando a un disegno commerciale che abbiamo chiamato Solidale Italiano, un vero e proprio marchio che in qualche modo deve identificare prodotti di contadini, artigiani, cooperative sociali che in Italia in qualche modo corrispondono con i criteri del commercio equo. Quindi noi stiamo puntando in maniera molto decisa allo sviluppo di un commercio equo e solidale dentro i confini nazionali e con gli attori economici nazionali. Più o meno sarebbero applicati gli stessi un po' criteri, il commercio equo salta un po' tutta una serie di passaggi, va direttamente ai produttori, si mette d'accordo su prezzi, quantità eccetera, e poi si occupa anche direttamente della distribuzione. Più o meno pensate di applicare modelli simili?

torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di commercio equo e solidale, in particolar modo con la possibilità di sviluppare anche in Italia una filiera di commercio equo e solidale. Stiamo parlando con Vittorio Rinaldi, presidente del consorzio CTM Altro Mercato. Ecco, mi veniva in mente, pensando a questo tipo di iniziative, che vi sono in realtà già alcune esperienze, non so, pensiamo ai prodotti di Libera, ma anche a tutti i mercatini degli agricoltori direttamente, o anche i gruppi di acquisto che vanno direttamente ad acquistare dai produttori. Quindi c'è già una sensibilità a livello italiano rispetto a questo tipo di rapporto. Come si inserirebbe il commercio ecosolidale in questa struttura che già esiste? E la considerazione che noi facciamo è che esiste ovviamente, come lei diceva, un retroterra già molto sviluppato di sensibilità, di pratiche di questo tipo, però la grande difficoltà che molti hanno è quella a disporre di una rete distributiva efficace. Cioè, molte iniziative sono iniziative che hanno un carattere temporaneo oppure periodico, ma molto saltuario. E quindi l'idea nostra è sfruttare la rete delle botteghe del mondo. Noi disponiamo di 300 ormai punti vendita in tutta Italia. Ecco, l'idea è di sfruttare questi punti vendita per far sì che i piccoli produttori che già operano nelle reti di Libera, dell'agricoltura biologica, e i produttori di Slow Food possono avere un sistema distributivo che in qualche modo li aiuta a commercializzare i loro prodotti. Quindi in questo senso che noi pensiamo che il commercio equo possa essere utile anche a chi già si è avviato su questa strada. Vi sono già degli accordi, delle idee, delle esperienze di cui possiamo già accennare? C'è qualcosa nel concreto c'è già? Sì, dunque va detto che la progettualità che stiamo creando la stiamo creando insieme ad altre tre reti, che sono tre reti rilevanti da questo punto di vista. Parliamo di Libera, parliamo dell'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica e stiamo parlando anche con Slow Food, perché l'idea è sviluppare questo obiettivo strategico insieme a coloro che già si muovono sul territorio nazionale in questo senso. Noi il marchio Solidale Italiano già l'avevamo creato qualche tempo fa, solo che fino ad oggi era rimasto un marchio sostanzialmente legato a un piccolo numero di produttori che producevano olio, pasta, e all'economia carceraria, cioè all'opportunità di dare lavoro a coloro che sono in carcere. Adesso la sfida è, insieme a queste reti che citavo, quella di trasformare un piccolo marchio in un grande marchio dell'economia sociale italiana che aiuti il consumatore e le associazioni a conoscere attraverso questo marchio lo sforzo che viene fatto da tante reti per produrre un'economia che sia appunto un'economia sociale, non solo un'economia a fini di mero profitto. Ecco, l'ultima domanda, poi ci dobbiamo lasciare, ma non pensate che questo possa anche creare una concorrenza rispetto a quello che era lo scopo iniziale, appunto, di aiutare il sud del mondo? Un esempio, penso al miele che viene dall'Argentina o dal Sud America. Se mettiamo in circolo nelle botteghe del terzo mondo, cosiddette, il miele italiano, si crea un po' una concorrenza, sia forse a livello di prezzo, sia anche di quantità. Questo come lo risolvereste? Ma dunque, il caso del miele è un caso abbastanza peculiare, nel senso che è uno dei pochi casi in cui c'è una sovrapposizione merceologica fra quello che viene prodotto in Italia e quello che viene prodotto tradizionalmente nelle zone dove noi andiamo a rifornirci. In generale questa concorrenza non c'è, perché si tratta di prodotti diversi. Nel caso del sud del mondo sono prodotti d'origine animale, quindi il caffè, lo zucchero, la quinoa, che sono prodotti che sono tipicamente tropicali, e invece qui stiamo parlando di prodotti che sono tipicamente nostrani. Io credo che la percentuale di complementarietà sia l'opportunità, ecco, di creare una complementarietà anche da un punto di vista dell'assortimento sia molto maggiore che il rischio di cadere in una concorrenza che peraltro sarebbe solo ed esclusivamente per un numero molto ristretto di prodotti. Quindi ci sono molte più opportunità che rischi, ecco, in questa scelta. Grazie. A voi. Chiudiamo questa trasmissione con tre brevi notizie. Non si ferma il consumo di suolo in Italia, lo constata il rapporto ISPRA, che evidenzia un trend sempre più preoccupante perché non rallenta e continua a procedere al ritmo di 8 metri quadri al secondo. Nel 2012 è stato perso un altro 7,3% di suolo, pari a quasi 22.000 km quadrati. Se i comuni più cementificati sono Napoli e Milano, a livello regionale il primato nazionale spetta alla Lombardia, ma seguita dal Veneto, entrambe con oltre il 10% di suolo cementificato. Nel suo rapporto l'ISPRA parla anche di forti impatti sui cambiamenti climatici. La cementificazione galoppante avrebbe comportato dal 2009 al 2012 l'immissione in atmosfera di 21 milioni di tonnellate di anidride carbonica, per un costo complessivo stimato in 130 milioni di euro. Effetti di questa trasformazione si hanno anche sull'acqua e sulla capacità di produzione agricola, perché sempre in questo periodo, a causa dell'impermeabilizzazione del suolo, avremmo perso una capacità di ritenzione idrica pari a 270 milioni di tonnellate di acqua. La vendemmia 2014 inizierà prima di Ferragosto. Il monitoraggio della fioritura dei diversi vitigni operato da Condifesa Treviso con il tecnico Fiorello Terzariolle evidenzia con certezza che la vendemmia si terrà anche quest'anno con largo anticipo rispetto alla tradizione, a iniziare nella prima decade di agosto con il Pino Grigio e poi con l'uva glera, quella del Prosecco, a fine mese. La riserva idrica accumulata con le abbondanti piovosità nel primo trimestre 2014 e le alte temperature dello stesso periodo hanno favorito un importante anticipo vegetativo della vite di quest'anno, dichiara Terzariolle. E per concludere, l'11 giugno alle ore 9 alla Corte Benedettina di Legnaro si parla di turismo rurale. Il Veneto è terra di storia, arte e cultura che attira ogni anno milioni di turisti, ma anche un turismo sempre più interessato ad esperienze legate alle tradizioni e ai prodotti agroalimentari, una vera e propria opportunità di mercato nuova per gli operatori del mondo rurale. Per cogliere al meglio tale opportunità è indispensabile strutturare il settore, creare un'offerta variegata e organizzata e adattarla alle richieste del mercato, sviluppando ampie sinergie e coordinando le progettualità e facilitando l'accesso alle informazioni. Ecco perché Veneto Agricoltura e la Regione del Veneto organizzano questo seminario, l'11 giugno appunto alle ore 9 alla Corte Benedettina di Legnaro, su come progettare, realizzare e commercializzare il turismo rurale nel Veneto. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima e vi ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con Arcav, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.